mi stai dicendo male. In che senso male? Non ti sento sciatto, sei tutto barattoloso, strano. Sì. Eh? Sì, non ti ho riconosciuto. Ciao comunque. Come chi sono? Chi sono secondo te, chi sono? Oddio. Cappa. Ma perché, scusate, cosa c'è di diverso? Ma no, c'è un lugare e poi c'è stato un po' di tempo che non entravo e quindi magari anche quello. Quanto un po' di tempo che non entravo? Non sono entrato un giorno. Va bene che vi vuoi bene, ma non lo diciamo di fronte a tutti. Come si dice adesso, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rascamo, cioè rispetto alla modulazione che hai di solito non è la tua. Sei sicuro? Perché come mi va tutto bene? Aspetta che mi ascolti. E se fatti la bocca al microfono non te la mangi. 1, 2, 3, prova. Qua esco benissimo. Adesso sei tu che ascolti male. Adesso hai migliorato molto, perché prima eri così, mi stavi parlando così. 1, 2, 3, prova, come stai uscendo? Vado a vedere. 1, 2, 3, prova. Adesso sei tu. Beh, che mi conta, sa. Bene, 2 giorni senza entrare perché avevo ospiti a casa e quindi non potevo fare come faccio di solito, poi ogni tanto li lasciavo e andavo a modulare, capito? Ho evitato di fare il maleducato. Hai fatto bene. Pensavo che te ne fossi fatti tu fuori per farti la settimana bianca. E invece sei ancora qua. Tipo, io sono povero, quella è la settimana bianca. Ma la cosa me la faccia usilo. Che poverino. Hai visto, né nei supermercati lo dovresti sapere, né tantomeno in altri posti, anche i pacchi col HDL, parlavo anche oggi col Corriere, dice che ne stanno arrivando pochissimi rispetto agli anni passati, non è come gli anni scorsi, eh. Io, guarda, io sto sempre consegnando, non ti dico, guarda, sono morto, non me ne vado via, mi danno sempre qualcosa da consegnarmi anche in macchina, perché c'è roba a Sassari, c'è roba da tutte le parti, l'ho visto che se sale nella Sassari, fatti questi qua, così non ti assali il furgone apposta. Anche stasera ne ho portato, ma noi stiamo andando alla grande, abbastanza. Quindi rispetto agli anni scorsi non hai visto differenza? Eh sì, qualcosa in meno c'è, ma noi ci salviamo anche perché abbiamo le ditte della zona industriale che ordinano pedane di roba, capito? E cesti e pedane, sono tantissime le ditte ancora che comprano la roba per i dipendenti. Beh, io me lo auguro che sia così. Così evitano di licenziare persone, perché è inutile dirlo, nel momento in cui c'è crisi e non ci sono persone che vanno nei supermercati, è logico che iniziano a mandare via un po' di persone. Il problema è che il periodo magari è buono, questo qua qui c'è un periodo che la gente ha speso tutti i soldi e c'è il calo, e sai come funziona. Infatti bisogna, per comprare veramente bisognerebbe aspettare quei giorni lì, perché lì che fanno le promozioni proprio per evitare che ci sia il calo, capito? Le promozioni e i regali bisognerebbe farceli dopo Natale. Vabbè, ma la tradizione è quella, non puoi cambiare la tradizione. Ti aspettare il regalo a Natale e tu ti vai da buri. Risparmiami. Non per risparmiare, perché ne approfittano, capito? Se tu guardi, l'anno è costellato di tutta una serie di date che servono esclusivamente per farti spendere. Sono ormai queste tradizioni che dovrebbero essere tradizioni religiose, non lo sono più, sono esclusivamente veramente profane. Tu guarda cosa hanno fatto del giorno dei morti, della festa dei morti, che doveva essere un giorno di commiato, un giorno di commemorazione, l'hanno trasformata nella festa di Halloween, capito? Giusto perché cosa? Per continuare, siccome c'era un buco, non sapevano a novembre che si trova tra l'estate e il Natale, non sapevano cosa mettere come festa per farci spendere, allora ci hanno buttato dentro questa cosa qua. Beh, qualcosa bisogna inventarsi, ecco. Quando il commerciante si vede perso, diciamo che cosa la deve inventare per fare i soldi? Caparoger, mi devi scusare perché io mi sto trasferendo di QTH, se mi dai un quarto d'ora riprendo dall'altra parte. Io la volentieri trovo perché devo andare a lavarmi le mani, così ne approfitto. Cappa, dammi un quarto d'ora, 20 minuti. so poco. Il tempo? Mele. Infatti non ho capito. Il tempo della mele? In Samari, erotic. Attenzione Fabrizio, attenzione Fabrizio, cambi. Vabbè. Sai l'anno scorso che cosa abbiamo. Abbiamo fatto per Capodanno. Capodanno, eh? Radio. Cosa fatto? Ho fatto il karaoke in radio. Uno cominciava una canzone e l'altro continuava, eravamo tutti in gruppi. No, però dai. Ma ti ripeto, se si crea il gruppo giusto, guarda che anche se sembra che l'associazione non stia andando avanti, cioè è stata registrata a tutti gli effetti, è che purtroppo son, forse non erano maturi i tempi, però aveva bisogno forse di assestarsi un attimino la cosa, e secondo me fra un po' ci possiamo realmente contare per vedere un attimino di portare la cosa avanti, come realmente sta andando. Poi io ho anche pensato, detto, magari stanno trasmettendo in qualche altro canale, io non riesco a trovare, vado a cercare, ho detto, ma deve essere, stava più entrando nessuno la sera. Quello, però vero è anche che quando ci sono dei malumori, cioè la gente se entra al baracchino, entra per scambiare quattro chiacchiere al pari di andare in un bar, è come se ti dovessero dire che nel bar dove ci senti di solito per stare con gli amici, ogni sera c'è una rissa, alla fine diciamo vabbè, ma che me lo fa fare, vengo qua a casa e sto meglio, no? Questo sì. Infatti io lo vedo così, l'apparato serve a quello, purtroppo secondo me bisogna evitare di conoscersi troppo bene, cioè di stringere troppo l'amicizia, bisogna tenere rapporti così molto saltuari, allo stesso tempo un po' distaccati, effimeri nel termine giusto, e portarli avanti così, appunto solo da radio, però è un peccato perché sai, poi ci si conosce, si possono fare molte cose, e condividere un'uscita, e andare in pizzeria, fare tutta una serie di cose, purtroppo però ci sono alcune persone che queste cose che non le apprezzano, capito? E quindi per forza di cose dopo un po' devono creare disdania. Io più dietro quando modulavo prima, non adesso, volevo mai conoscere gente, perché dicevo che ci doveva essere quel non so che, di atmosfera, di immaginazione che c'era tra un interlocutore e l'altro, per dire, me lo immaginavo Buste era magro, ti faceva un'altra immaginazione della persona con cui parlava con te, magari la trova era tutta un'altra persona, però sinceramente ero più restio a conoscere gente, perché tipo che c'erano molti malumori anche da prima e cose, ero restio. Mi sono un po' aperto e forse ho fatto male. Sai che comunque viene influenzato dallo stato fisico di una persona. Tu immaginati che quando facevano il casting per le telefonate della SIP, quella che allora si chiamava SIP, le facevano in una cabina chiusa, cioè la commissione non le poteva vedere in faccia fino alla fine. Perché per non essere influenzati da quello che poteva essere la persona, capito? Ma dovevano esclusivamente tenere conto della voce. Purtroppo dal punto di vista femminile sicuramente qualche delusione io l'ho avuta, nel senso che pensavo che fossero chissà quali strafighe, poi perché avevano voci suadenti e belle, poi vai a vederle, erano delle cadranche. E tu cosa facevi? Mi è capitato, a parte che ho lavorato come nel call center a Milano, nel call center che tra l'altro gestiva la garanzia della Smart quando era appena uscita. Quindi ho conosciuto comunque delle mie colleghe prima telefonicamente, dopodiché le ho conosciute di persone, per carità, ma a prescindere da questo, anche qualche conoscenza che ho fatto di Greco L in frequenza, poi andare a vederle, per carità, anche loro non volevano viste, capito? Mi ricordo sempre perché avevo dato appuntamento, mi avevano dato loro veramente appuntamento a questi due ragazzi, mi avevano fatto fare via Grazia Deledda e gli ho detto che avevo un'altra macchina per vedere com'era, no? Sono passato, l'ho guardato e sono tirato dritto. Allora è capitato anche a me, purtroppo però non avevo dato la macchina sbagliata e sono arrivato lì e se ne è accorto dalla faccia, per carità. Però quella qua era come stata conosciuta in chat. Un'ora l'avevo incontrata, ma guarda, un cassonetto alla differenziata ispirava più sesso, capito? Mamma mia, quindi davvero, non voleva vista. Cambiando discorso, a proposito di cosa brutta, ho avuto la brillante idea di comprarmi due trittoni. Riconosci i trittoni? Claudia, dove li hai presi? Ah, Davide, perché c'è vicino a Giulio. Li ho messi nell'acquario. Vabbè, mi sono anche documentato prima come devo tenerli, no? Che mangiano larve di zanzara, eccetera, eccetera. Questi trittoni praticamente li ho messi un sughero sull'acquario perché c'è scritto che praticamente respirano fuori dall'acqua, però stanno la maggior parte del tempo in acqua. Allora cosa ho fatto? Gli ho messo questo sughero, ho preso un vassoio di quelli di cosa, di come si chiama, il polistirolo, e andavano lì sopra, li mettevo un po' da mangiare sopra quella stava vassoio e niente, sono molto dolci, li prendi in mano, li accarezzi e cose, ma me l'avessi fatto, li ho accarezzati e cose, e sono stati tranquilli, poi sono andato a letto e ho avuto prurito all'occhio, mi sono andato appena all'occhio, ho sempre il peperoncino, peggio del peperoncino, mi ha bruciato l'occhio, se hanno qualche, deve formare però, vedere se è così, che hanno qualche acido sulla pelle, qualche cosa del genere, mi ha irritato l'occhio, ma in una maniera, tu non avrei mai pensato una cosa del genere, che mi ha dovuto mettere anche con io, mia moglie, perché ci stava tutto gonfiato. Ovviamente hanno una specie di cosa orticante al pari delle rane, capito? Però io devo aver capito male, allora non so cosa siano i trittoni. Io pensavo fossero dei pesci, invece sono? I trittoni sono lucertole acquatiche, rimangono tipo la lucertola, sono acquatici, anfibi diciamo più che acquatici, perché talvolta appunto respirano fuori e portano molto in acqua. Adesso siamo fatto il nido dei filtri, praticamente restano sempre dove ci sono i filtri e toccando, guardando a loro, ho scoperto che ci sono nati dei gamberi che si sono infiltrati tutti quanti nel coso dei filtri e mangiano la roba che li ho lasciati stare perché sono piccoli piccoli, manco fa freddo. Poi ho capito quali sono tipo camaleonti, capito? Ho capito. E sono sopra, c'hanno le creste. No, non è quello. Perché avevo dato su internet tritone, come si chiama? Petto di fuoco, una cosa del genere, è rosso, petto rosso e l'arancione. No, non sono come dici tu, sono tipo lucerto, non ti posso dire. Però sono anfibi. Ho un punto di vita quando sono in libertà tra le pietre dei fiumi dove c'è l'acqua bassa che dopo soltanto la testa fuori per respirare. Ma te lo pagati? 15 euro l'uno. Che molto, pensavo di più. Ma e cosa, invece in quella questione d'animale che si chiama Fattoria Angela, ci sei andato? Oh, tutto quanto smesso, tutto sempre gli acquari tutti vuoti, non c'è più nulla. I pesci non hanno più. So, perché a parte che la posizione è abbastanza infelice di quel negozio. Quando mai metti un negozio di mangimi e un negozio di cose qua, di a fianco alla piazzetta che avrà una almeno tre corsie dedicate al coso degli animali, come si dice, alla cura e alla nutrizione degli animali. È normale che lo stesso rappresentante viene da te, gli fai un ordine di 20 pacchi, te le fa pagare in un certo modo, va alla piazzetta, gli fa un ordine di 200 pacchi, gli fa uno sconto su cui tu non puoi, come tu puoi dire, fare il prezzo migliore. E infatti ci stanno uscendo sotto. Io riconosco anche quelli là. Competere, sì. Petizione, esatto, non puoi competere, perdonami se non ho utilizzato un termine giusto, non appropriato. No, sto scherzando. Niente, io all'inizio sono andato a vederlo quel negozio e all'inizio ti dirò che stava cominciando bene. C'era un po' di tutto, dai pesci a molti uccelli c'aveva, e gallinacci, poche, tutta questa cosa qua. Adesso è un po' morto, cioè un bel po' morto. Sono andato a cercare i pesci perché me l'aveva appunto indicato, ho detto che era un tuo ex amico. E niente, sono provato a vedere, ma non trovavo pesci, non ne trattiamo più, tutto vuoto. Ha detto lui o io te l'avevo detto, sì. Me l'avevo detto, tu. No, ma il problema è questo, scusa, sono degli improvvisati, non ti puoi improvvisare a fare una cosa, cioè quella lì era, sai cosa c'era lì prima? Un fabbro, di colpo si sono inventati, come è morto il capotipi della famiglia, si sono inventati questa storia di fare il negozio degli animali. Ma quando mai? Basta che pensi che su una gallina che loro vendono a 8 euro e che a loro costa 5 euro. Prima che la vendano, o la vendono il giorno stesso in cui la scaricano la gallina, oppure bastano 3 o 4 giorni che gli rimanga lì, per cui gli devono dare da mangiare, e alla fine ci vanno in pari. Ma se sta avvenendo un pittone, tu c'era un pittone? Sì, gliel'ha portato un ragazzo, gli ha detto vendimelo, perché in casa non lo posso più tenere, devo andare fuori a lavorare, quindi gliel'ha dato a lui. Niente. Scemo di guerra, ovvia. No, lo conosco bene il proprietario, ma tra l'altro si era preso, non so se hai mai visto il cane che c'ha, il Doberman. Chi? Un attimo, non si chiama Davide, si chiama Giuseppe. Ma tu cosa stai dicendo? So, fattoria Angela. Ah no. Tu se vedi il cane che c'ha Davide, ti assurdi. Ma la bestia è finita. Oh, questo qua invece c'ha questa specie di cane, un Doberman, se l'è preso perché pensava di farlo diventare cattivo. Un cane che vede tanta gente al giorno, che è libero di circolare, non diventerà mai cattivo, meno male. E quindi è una specie di giocherellone, rompicoglioni, ne fa di tutti i colori, capito? Quello di Davide è un bel grande, è un cane enorme, tipo un bulldog, ma un bel grande, enorme. Se lo vedi, ti innamori perché sembra, da cucciolone già c'erano due zampone che sembrano quelli di un elefante. È allucinante, è un bel grande, già da piccolo. Grazie. Non lo so come si chiama, no? Lui ha detto che ce n'è uno solo, a Sassa è il suo. Su qui dice che se l'ha fatto arrivare da poco, però dice accoppiarlo non lo fa ancora perché è molto giovane. Bene, allora che non lo occupi, assolutamente, ma saltando sempre in palo in frasca, ma hai visto quel tipo che mette i cartelli di Alitalia contro l'unità sanitaria locale? Ma ne ho visto uno, siccome in questi giorni stavo consegnando i cesti a Sassari. Sono andato in via Giorgio Spruni e ci sono dei cartelli sopra la via e ci sono scritte cartate. In tutti i manifesti delle vie ci sono, cioè in tutti i cartelli delle vie sono questi manifesti, con via inventata. Questo, siccome gli hanno fatto secondo lui, poi non so se sia vero o meno, gli hanno fatto morire la moglie. Morale dal giorno ha fatto una specie di sit-in in via Italia di fronte al pronto soccorso dove denunciava tutti i soprusi, tutte le pecche diciamo della mala sanità, e alla fine è riuscito a distanza di 2 anni a far rinnovare il corpo della moglie. Ah, di Roger, devono fargli, i medici legali devono fare un'ulteriore autopsia per accertare le accuse che lui ha mosso. Magari sono accuse mandate così, buone di dritto. Ah, lo so, ma io ho visto dei fatti al tuo servizio, che io facevo servizio ambulanza sino a 2 settimane fa, adesso me ne sono andato via. E una volta sono andato a prendere questa donna, devo fare su un semplice trasporto, una dimissione dall'ospedale sino a casa. Quando siamo andati là col marito, la signora non c'era nel letto e ci ha chiamato questa signora della camera, si è avvicinata e ha detto, l'infermiera ha detto, no, è caduta dal letto, se l'hanno portata a controllare, eccetera, eccetera. Questa signora ci ha chiamato e ha detto che non era vero, che siccome questa signora aveva degli svenimenti, il marito l'ha portata solo per dei controlli, l'avevano ricoverata un paio di giorni, poi gli hanno dato le dimissioni, no, l'hanno dimessa. Praticamente dovevano controllare che questa donna non si girasse per non cadere dal letto e cose. Beh, fatto sta che gli infermieri se ne sono andati per il cavolo di loro, la donna è caduta e hanno fatto risultare come se si fosse sentita male, non so che cosa. Fatto sta che allora questa donna ha detto questa cosa, tramite il marito ha detto ci siete voi testimoni, ha detto sì sì non c'è problema, ha fatto fare l'attacco alla moglie, ha chiesto l'attacco, gli hanno trovato un ematoma in testa che comprime il cervello e praticamente è entrata in coma da una fesseria, aveva cominciato col martelletto per vedere se aveva reazione, non aveva più le reazioni nelle ginocchia, niente, nulla, proprio morta praticamente. Una donna, e gli ha detto che non si poteva manco operare il dottore perché troppo attaccato al cervello, poteva lesionare il cervello operando, quindi non si poteva manco operare. Dito, ma è un classico. Immaginati che io una volta, a proposito di malasanità, sono entrato in oculistica perché avevo una cagata e mi hanno provocato una cosa seria. Mia moglie una volta l'ho dovuta portare anche i denti a contatto, gli hanno fatto nel rettetto gli occhi al punto di gonfiarsi, di provocare del liquido all'interno. Immaginate che io sono arrivato lì perché avevo, mi si era rotto un capillare all'interno della retina, quindi non potevano fare niente se non darmi un anticoagulante per farla assorbire. Beh, visitandomi mi hanno contagiato una congiuntivite virale della persona che c'era prima di me. Hanno utilizzato lo stesso oculare e l'hanno passato da lì a me. Allora, dimmi. E dove con la congiuntivite virale l'ha avuta mia moglie, con la congiuntivite, gli avevo fatto tutti gli occhi, eccetera, eccetera. Sì, sì, è una cosa che fa un bambino male, anche gli occhi bruciano di brutto, mi rifà rossi, rossi, rossi. No, io pensavo di perdere l'occhio, perché poi, quando sono ritornato da loro, perché mi hanno tenuto una settimana, che ancora non mi si era scatenata questa congiuntivite virale. Quando sono ritornato a loro, che avevo i primi gli esordi, hanno confuso la congiuntivite virale con quella allergica e me la curavano col cortisone invece di curarmela con le proteine. Alla fine, cioè con le proteine, con le vitamine. Alla fine mi stava diventando talmente gonfio l'occhio che pensavo di perderlo. Il fatto che siamo in mano a loro, cosa accade, non sappiamo noi cosa combinano. Siamo in mano a loro, molte cose non le sai e sei profano, certe cose pensi che ti stiamo curando bene e poi magari ti fanno cagare. Io ho un amico mio che ha avuto un incidente in macchina, un brutto incidente, ti dirò, il rettilineo tra l'altro, e si è scoppiata la gomma della macchina e è uscito fuori strada. Praticamente per dirtela tutta aveva il cranio sollevato quando l'hanno portato in ospedale e la gamba praticamente che si è andata a conto suo, perché gli hanno messo i ferri nella gamba, è stato in coma in tempo, gli hanno richiuso la scatola cranica, eccetera eccetera, il dottore ancora si domanda come fa a essere vivo. E morale della favola, questo amico mio un occhio l'aveva perso in un incidente, ma l'altro ce l'aveva. Un occhio l'ha perso, ma non perché gli si è bucato, perché ha il coso, la scatola cranica, comprimeva sul nervo ottico e ha fatto perdere la vista. Nell'altro occhio, praticamente quello in cui ci vedeva, li mettevano, praticamente gli facevano degli antibiotici. Prima passava uno e gli faceva un'iniezione, passava l'altro e gli faceva un'altra iniezione. Alla fine si è rotto e ha detto, dottor, ma io quante iniezioni devo fare al giorno? Una, perché? Mia mamma me l'hanno fatto già tre oggi, ma non è possibile, dice, questi sono scemi, non so che cosa, tanto ha perso anche la vista l'altro. Non si è indennizzato. Esatto, lui non penso che si sia indennizzato, però è l'Unione Italiana C che ha imparato a usare l'alfabeto Braille, ha fatto il centralinista al Banco di Sardegna, eccetera, eccetera. Quindi deve essere, siccome dice che c'è gente un bel stronza, cercavano di fargli la forca perché volevano far entrare un'altra persona. E gliene faceva tutti i colori dispetti su dispetti, alla fine si è rotto le scatole, se ne è andato al Banco di Sardegna e si sta riprendendo la pressione dei cicli. Comunque è l'alfabeto Braille, il Braille è toglietemi tutto ma non toglietemi il mio Braille. Dai, va bene, Braille. Tu mi correggi, non andiamo in pareggio, scusa. Certamente che sì, professore, e Sono andato da quel cinese, ti ricordi dove siamo andati a prendere quello che aveva, che ne aveva un bel, che sembrava un magazzino brutto, invece era più fornito. E ho trovato queste lucine azzurre per la stazione radio che sono la fine del mondo. Io ce l'ho tipo lampadario piccolino, tipo plafoniere. Devo prendere lì, però non facevano abbastanza luce, adesso le integro. La morale, io non riesco a capire come questi cinesi riescano a vendere queste cose a quel prezzo. Tu immaginati che su queste strisce sono 21 cm di striscia, dove c'è ogni centimetro c'è un diodo LED blu, azzurro, ad alta efficienza, ad alta luminosità. Se tu vai a comprare la Fusaro ti costano esattamente 80 centesimi. Quindi 80 centesimi, se tu li moltiplichi per 10, sono 8 euro, per 20 sono 16 euro, ce ne sono 21, quindi sarebbero 16 euro e 80 centesimi. Poi ci sono un pacco di batterie, perché le puoi provare, schiacci un pulsante anche fuori dalla confezione e si illuminano. Un pacco di batterie che sono quelle batterie fini, piccoline da bottone, diciamo, per raggiungere i 12 volt che ci vogliono per accenderle, ce ne saranno quindi 10, una cosa del genere. Cioè, vai a sommare tutte queste cose e arrivi a delle cifre assurde, tipo 20 euro e questa striscia l'ho pagata poi 3,50 euro, 4 euro. Io non riesco a capire davvero come faccio. Sono cose che magari fabbricano loro e li pagano di meno, non lo so. Quello è preso, quello tipo pompa. Pompa, la pompa illuminata. Capito, porta. La pompa. Pezza, non ti sto capendo. C'è la pompa per innaffiare, c'è presente la pompa. Ah, pompa! Eh sì, è simile, in breve sono affogati in una specie di striscia plastica, morbida, che tu puoi modellare a seconda di quello che vuoi incorniciare, diciamo, questa cosa luminosa. Tu sì. E stavo dicendo, scusami perché sta parlando con mia moglie, dimmi. E no, è una specie di materiale plastico in cui sono affogati i cosi, i diodi. Ce ne sono 21, quindi 21 centimetri, uno ogni centimetro circa. Però tu immaginati quanta merda immettono nell'ambiente poi queste batterie a bottone, che poi, ti ripeto, tu una volta che le devi innestare in macchina devi staccare questo pacchettino di batterie che te lo mettono esclusivamente per fartelo vedere come cosa dimostrativa dentro, quando è ancora dentro il pacco, capito? Vabbè, qui è molto fornito, si vede che c'è un bel roba, è un po' disordinato come posto, sembra quasi un magazzino, ma è fornito. Molto fornito, perché stamattina ho avuto la possibilità di soffermarmi su alcune cose, apparecchie. Cioè, tutto quello che puoi trovare in un cinese, questo ce l'ha. Ma poi è strano, perché è l'unico che invece di farti la scontrina ti fa la ricevuta. Ovvio. Te lo ricordi, io c'avevo il blocchetto che la compilava sul momento. Sai, non c'è fatto cassa. La cassa, non ha cassa fiscale, quindi ti fa la ricevuta. Allucinante, forse quello è un magazzino per cinesi. Di la verità è la fattura, quella lì, non è la ricevuta. No, non lo so, però sì, smercia, cioè c'ha parecchia roba, e smercia anche parecchio, visto. Secondo me di quelli che forniscono i negozi cinesi, è un magazzino all'ingrosso e ti vende la roba all'ingrosso. Magazzini di smistamento è possibile, a proposito di ingrosso, a proposito di comprare di fare di cose, tirare e mollare, ho trovato finalmente un trasformatore, un alimentatore da 35 ampere, 12 volt lineare, cioè non switching. Quanto costa? Guardate già su eBay, ho vinto l'asta a 110 euro. Pagato. Ti ho detto che quanti ampere? 5, però sono effettivi, cioè non è switching, quindi te li dà tutti. Che lo switching li dà tutti? Io che ho 50 ampere, mi dai come? Ho fatto anche allineare da 300 watt e saliva la lancetta di colpo. Però due sono le cose, guarda, quando si imballa uno di quelli là, siccome c'è i finali, allora, il finale quando funzionano i finali, quando si brucia possono capitare due cose, o si interrompe allora sei fortunato. O ti fa scaricare di colpo tutta la corrente che hanno i condensatori, e sono due condensatori di solito a 400 volt, sai come te lo fa l'apparecchio? Pagato. Vabbè, io oramai ce li ho, li tengo questi qua, si costano un bel. Anch'io, io quello che utilizzo, che stavo usando prima quando mi hai sentito in stazione, ero, sai, e c'ho sempre quello della Telecom, si chiamano, Tecnocom, una cosa del genere. Era la 30 watt, scusami, 30 ampere, ma è sempre andato bene, sta continuando ad andare bene. Quelli cagati sono questa partita della Proxel che davvero sono a buttare nel cesso, guarda. C'è quello, come si chiama, Nissi, che è sempre di quelli senza trasformatore, e ce l'ho 8 anni, ma sempre bene, non mi ha mai avuto problemi, cosa di gola, sta sempre bene. Poi ne ho uno dell'Italia, come si chiama, comprato da Fusaro, comunque Italia elettronica, una cosa del genere. Io lì lo stesso ce l'ho nel tempo, ce l'avevo 9-10 anni. E hanno preso bene anche quello. L'unico che mi ha fatto problema è quello da 50. No. Ma perché ti ripeto, non è che puoi dire che tutti quelli della Proxel vanno male, per il semplice fatto che la Proxel non è una fabbrica, la Proxel prende, compra dalla Cina e rivende. Compra in grosse partite, purtroppo si è trovato in questo coso che era un bidone. E ciccia, pazienza. Io comunque adesso sto trasmettendo invece come alimentazione con un GBC da 5 ampere e va benissimo perché sta alimentando sia l'apparato che sta pilotando anche una scarpetta da 30 e sta andando bene. Mentre invece gli apparati di casa li alimento con questo piccolino che ti stavo dicendo, sta andando da Dio. Io sempre, ma questi qua, il problema, la cosa bella di questi alimentatori lineari che hanno l'avvolgimento dentro è che non moriranno mai, il massimo che si può bruciare è il finale, cambi il finale e riprende senza nessun problema, lì è tutto finale, a seconda di come ti fa danno anche l'apparato. No, c'ha la protezione contro inversioni solarità, contro i cortocircuiti, eccetera, so che c'ho io, non lo so il tuo se ce l'ha, il mio ce l'ha. Costava 135 euro più le spese di spedizione. Ce l'ha, perché guarda, io ho ordinato io ho telefonato lì alla Tecnocomunicazioni per ordinare il modello precedente, prima del 6045. E mi ha detto, guardi, non ce l'ho, ne ho solamente uno che ha 40-45 ampere, adesso non mi ricordo. E dice, glielo do allo stesso prezzo dell'altro, è quello inferiore, lo vuole. E gli ho detto, sì, non c'è problema, tanto è vero che me l'avevo lasciato a 100 euro. Però bel bidone, 100 euro per una cosa che faccia del giorno dopo. Mi sono fatto un calcolo di quanto mi sarebbe costato spedirlo, fammelo rispedire indietro, perché loro ti fanno pagare anche le spedizioni di riconsegna. A questo punto ho detto, vabbè, ciccia, esperienza negativa, lo mettiamo da una parte, l'ho data a pompone per cercare di aiutarlo, sembra che non stia cavando piedi, eppure gli ho fornito anche il coso, evidentemente sono particolari questi alimentatori, capito? Non fa neanche aggiustarli. Invece, vabbè, diciamo, sono piccoli. Tu puoi andare la vettura per vedere? Il discorso di prima, però. Cioè, se mi costa più di spedirlo, comunque di quanto sarebbe costato riacquistarlo nuovo, a questo punto non ne vale la pena. Perché Vittorio, che è un professionista, al pari di tutti i professionisti, per aprirlo solamente ti prende quei 20-25 euro, 30 euro e non ne vale la pena. Non è vero. Non ne vale la pena o non è vero che ti prende 30 euro? Non è vero che ti prende 30 euro, secondo me. Io ho cambiato i finali al gas, non in questo e in un altro, ma per 35 euro puoi fare tutto. Hai ragione, però ti sto dicendo, se tu vedi la rottura di palle che ci vuole svitare quella cosa, tirare poi la cosa, arrivare ai finali, smontargli la piastra, non ti sto dicendo che ti prende soldi che non ti deve prendere, perché il prezzo è quello, ma perde talmente tanto tempo che capisco, se mi dovesse prendere, ma non 30, anche 40, anche 50, non ne vale la pena, perché qua sono molte a perdere questi alimentatori, una volta che ti spacciano li prendi e li butti. Il fatto è che se ti vuoi dare una cosa un po' Stefano non conviene più quanto. Ma infatti, non ne vale la pena. Quando li compri, considerando quanto li fai, fai un salto nel buio. Se piace la partita buona, ti durano una vita, se no niente. Per quanto l'ho usato, pari di aver speso, se ti fidi, 5 euro al giorno, 5-10 euro al giorno per utilizzare, perché se sono i giorni che l'ho utilizzato non arrivo a 20. No, il mio ti dirò una cosa, a volte si sta accendendo la prima, al primo colpo si accende. Ti ripeto, è possibile che nel tuo sia stato esclusivamente un problema di, perché l'avevo letto, è un problema di interruttore, è progettato male, avevo letto che era progettato male, perché in breve andava in sovraccarico sui finali e alla fine li bruciava come cartucce, capito? E infatti la prima volta hanno sostituito solamente i finali e me ne hanno dato anche altrettanti, poi ho sostituito anche di nuovo i finali, ho sostituito la scheda, ho sostituito quasi tutto l'alimentatore e nulla, niente, eppure la corrente guarda passava, arrivava a un certo punto l'interrotto. Questa alimentatore qui non è stata assegnata, era la ditta costruttrice e vecchi di fornirla. Che tecnico-comunicazione lo sapeva già da me che l'alimentatore non andava bene, da me e da tanti altri sicuramente. Il problema è che quando però ti esce la partita con carta in Cina, cosa pensi che una volta che ricompri ai cinesi te le puoi restituire agli animali? E comunque non hai bisogno di dirmi niente, ho capito e so cosa mi volevi dire. E se uno continua a vendervi dopo che sa, vuol dire che sono più falliti, non è una ditta sì. Quello sai, però loro hanno, hai ragione, cioè lì la loro serietà dire vabbè abbiamo fatto l'errore noi e ce ne assumiamo la responsabilità e ci perdiamo soldi, oppure ci mettiamo a venderli comunque e nel momento in cui qualcuno protesta, come è successo con me, lo riempiamo di componenti che poi non servono a niente. A me diciamo, no, comunque non ti fanno pagare per spedizione. No, allora, non ti fanno pagare, non magari non ti fanno pagare la rispedizione da parte loro, però la spedizione da parte tua la devi pagare. Quello sì. Sì, perché l'ho già pagato una volta, sarebbe la seconda e sarebbero già 30, se non anche di più euro. A questo punto non ne vale la pena. Vabbè, è così, purtroppo. Vabbè, sai, si sono persi il cliente, capito? Ma ti dico la verità, che siano delle cinesserie questi Proxel, non v'è dubbio, dai microfoni a quelli, a quegli alimentatori, e magari quelli fanno fabbrica anche diversa, cioè anche per quanto cinese non è la stessa. Però anche questi, già l'hai visto, sì, è vero che sono belli come microfoni perché comunque hanno un'ottima resa, però i cavi fanno schifo, la cablatura per carità, la saldatura sembra fatta con stagno marcio, cioè hai presente quando lo stagno si surriscalda troppo, e sembra fatta così. E ancora? Sì. Fai rotti, mi sembra che sei mezzo colpo al sonno, dai. Mi sa che la signora ti ha messo l'out out e quindi devi andare a nanna. E di conseguenza io ne approfitto, ti saluto. E ci sentiamo alle prossime, decidi uno di questi giorni quando ne hai voglia, quando non c'è troppo freddo, ci organizziamo e andiamo a pesca. Dopodiché non ho più sentito Leoncino, che fine ha fatto? C'è troppo poco, siamo usciti ieri sera. Dove siete andati a ballare? No, a mangiarci una pizza. Dove, a Boeing? No, pizza e al taglio così. No, e poi ci siamo alla fine, siamo fatti uno di quei pani così grandi. Che non abbiamo trovato parcheggio, siamo usciti per la pizza, poi ci siamo fatti il panino con il giusto. Così. E dove ve lo siete fatti? A Renato. Ma via Pasqua il lattone, ma non lo faccio più perché me l'ha fatto freddo, il panino non mi piace di gusti. Posto dove lo fanno molto buono a Porto Torres, dietro la chiesa di San Gavino. Ce n'è uno che si chiama il coccodrillo e un altro che si chiama il pol diavolo. Il pol diavolo lo fanno davvero buono. Coccodrillo come fa? Ah, bene, campa di Roger, Gianni doppio rum, da questa parte il Grotti, ti supercordializza con 144, buon QRT quando lo sentiamo alle prossime, spero domani, a più presto, ben sentito e arrivederci, buonanotte, ciao. Buonanotte, se ci sentiamo tanti auguri, ciao ciao. K di Roger, dai, ci sentiamo prima, ciao ciao.